Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Su 24 ettari di terreno a Rovolon, in provincia di Padova, si trova l'azienda agricola biologica La Costigliola, che non è una semplice azienda agricola, ma è un centro sullo sviluppo sostenibile promosso da Banca Etica. Quindi non un agriturismo o un'azienda che fa produzione solamente, lavora sulla promozione di quello che possiamo definire appunto sviluppo sostenibile, che è un po' il tema che stiamo portando avanti con questa trasmissione da un anno circa, ormai siamo quasi a un anno di trasmissione. Per capire che cosa fa realmente La Costigliola, come è nata questa idea e quali sono le prospettive di sviluppo, abbiamo invitato oggi Paolo Sacco, socio padovano di Banca Etica e consigliere appunto della Costigliola. Intanto benvenuto Paolo. Sì, grazie, ben trovato Emanuele. Vorremmo proprio sapere intanto cosa vuol dire centro sullo sviluppo sostenibile e poi magari capiamo un po' la storia di questa azienda. La Costigliola è chiamata un centro sullo sviluppo sostenibile perché è un'azienda agricola un po' speciale che non si propone soltanto di fare agricoltura e agricoltura biologica, ma si propone di essere un luogo dove si scambiano esperienze sulla sostenibilità a 360 gradi, cioè sia nell'agricoltura ma anche nella tutela dell'ambiente, nelle energie rinnovabili e in molti altri settori nei quali si può proporre e sperimentare un nuovo modello di sviluppo che sia appunto sostenibile, rispettoso dell'ambiente e dell'uomo. Quindi questa azienda cerca di mettere in pratica e mostrare al pubblico, a tutti i visitatori che passano di lì, come si può fare per esempio agricoltura biologica in modo sostenibile, come si possono promuovere le tecnologie di risparmio energetico e le energie rinnovabili, e questo lo fa sia direttamente ma anche e soprattutto facendo incontrare tutti i soggetti del privato sociale o della cooperazione che lavorano su questo tema. Sono tutti temi che Banca Etica da sempre sostiene, perché Banca Etica è una banca, anche lei un po' speciale, che vuole finanziare appunto tutte quelle attività che generano un valore sociale. Fra queste ci sono anche quelle legate allo sviluppo sostenibile. Questo è un modo per sostenere anche tutte quelle realtà che Banca Etica favorisce. Certo. Ecco, com'è nata un po' questa idea e qual è il ruolo di Banca Etica in questa azienda? Ecco, questa idea è nata perché era disponibile un immobile sito vicino ai Colli Euganei, in particolare si tratta di un immobile che si trova a Rovolon, nel Parco dei Colli, ai piedi del Monte Grande. Questo immobile era un vecchio podere che ha anche mille anni di storia, la parte più antica, che chiedeva di essere valorizzato, e si sono incontrate la volontà del proprietario con quella di Banca Etica, che cercava da un po' di tempo un luogo fisico dove far incontrare le persone che hanno a cuore tutti i progetti sostenuti da Banca Etica nel campo appunto della sostenibilità, dell'agricoltura biologica, quindi della tutela del territorio, dell'ambiente e dell'uomo. E allora questo progetto ha preso avvio in questa struttura dove ci sono 24 ettari dedicati a coltivazioni della vite, di ortaggi, di cereali di diverso tipo. Beh. Si può avere anche una ristorazione a chilometro zero e non solo sperimentare l'agricoltura biologica, ma anche per chi viene ospitato è possibile anche mangiare i prodotti che sono stati coltivati esattamente in quell'azienda. Ecco, i prodotti sono, quindi si va dal vino ai cereali? Sì, esattamente, ci sono dei vini, due bianchi e due rossi per l'esattezza, poi ci sono diversi cereali che vengono coltivati, dal grano, il farro, l'orzo e anche il miglio, il mais, e poi ci sono ortaggi, quelli invernali che quelli estivi. Ecco, ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. notte no, non dovevo andare via. Ero convinta sarei riuscita a cambiarti un po', ero sicura che non mi avresti detto di no. Io ti volevo in una vita che non era tua, io dicevo ti amo, tu mi dicevi una bugia. Ah, la felicità. Poi che cos'è? Di fatto sono sola qui, sono qui senza di te. Vorrei tornare indietro, amore, aspetta. Lo so che ho sbagliato e ti chiedo scusa. Amore, io per te farei di tutto. Ah, la felicità. Torniamo in linea con la trasmissione del Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di un'esperienza particolare, quella dell'azienda agricola La Costigliola, promossa dalla Banca Popolare Etica. Ne stiamo parlando con il consigliere della Costigliola, Paolo Sacco. Ecco, abbiamo visto che c'è tutto un programma di iniziative, c'è un sito internet molto ricco della Costigliola, di questa azienda, che presenta tutta una serie di iniziative che vengono svolte settimanalmente, anche più di una settimana. Quindi è diventato un luogo anche di incontro e di convegni. Sì, esattamente, la Costigliola vuole essere proprio questo, cioè un luogo aperto non soltanto alle iniziative, diciamo, sviluppate in proprio dalla banca, ma anche a tutte quelle associazioni, quelle realtà, quei centri di studio, sindacati, unioni industriali, associazioni di ogni genere che vogliono incontrarsi, scambiarsi esperienze, fare meeting, incontri, fare formazione all'interno e anche all'esterno. E quindi la Costigliola si propone come un luogo per proporre buone pratiche in tutti i settori, diciamo, non solo dell'agricoltura biologica o dello sviluppo sostenibile, ma anche della cooperazione sociale, della cooperazione internazionale, del commercio equo e solidale, tutti quei settori che Banca Etica da sempre sostiene. La vostra attività viene anche aperta, nel senso che ci sono state delle iniziative alle quali hanno potuto partecipare anche persone che venivano da fuori, tipo alla vendemmia o ad altri momenti di questo genere. Qual è la prossima attività in programma? La prossima attività in programma, dunque abbiamo adesso qui nel mese di giugno, ci sono dei campi avventura del WWF che sono dedicati ai ragazzi e che appunto hanno piacere di passare alcune settimane a contatto con la natura e scoprendo quindi la biodiversità e la varietà di piante. Quindi dei centri estivi praticamente? Sì, e sono come i centri estivi, anche se hanno una valenza, diciamo, diversa, perché sono legati appunto al WWF che da anni sviluppa queste tematiche. Ci sono anche i centri estivi che se il tempo ci assiste, e non sappiamo quando, probabilmente ci sarà anche quest'anno la vendemmia partecipata, che è un evento sempre molto, molto piacevole, perché ecco, sono in quegli eventi lì che si vede qual è la reale apertura di questa azienda. Tutte le persone possono partecipare alla vendemmia, è un lavoro semplice, si sta insieme per alcuni giorni, si può anche alloggiare, si offre il proprio lavoro, si lavora insieme ad altri in uno spirito di reale partecipazione e condivisione, e si raccolgono appunto i frutti della terra, i frutti di queste coltivazioni biologiche. Gli altri anni li abbiamo fatti in pieno agosto perché la vendemmia era anticipata. Quest'anno il clima è stato molto molto diverso dalla norma, quindi è probabile che questa attività si farà in un periodo molto più avanzato, vedremo come va la stagione. Comunque, ecco, questi sono sempre momenti nei quali si possono riscoprire, diciamo, certi piaceri che provavano anche i nostri genitori, i nostri nonni, quando vendemmiavano tutti insieme. Sono cose che con, diciamo, i ritmi di vita di oggi abbiamo un po' perso. Qui alla Costigliola è possibile riviverli. C'è stata anche una bellissima festa della vendemmia lo scorso ottobre, con la pigiatura del vino anche a piedi scalzi, e quindi abbiamo rivissuto anche i momenti gioiosi delle vendemmie di una volta. Ecco, tutto questo si può vivere alla Costigliola. Ci sono anche altri eventi che man mano possono anche essere proposti, diciamo, dai soci, dagli amici frequentatori, perché vuole essere proprio un luogo aperto alla partecipazione di tutti. Questo è un po' il clima che si respira, quello di gioia nel fare le cose insieme. Ecco, non è un luogo che appartiene diciamo soltanto alla banca, è un luogo che si propone come una piazza per tutti, diciamo. In effetti una banca che propone anche un'attività di questo genere è sicuramente una rarità, è una novità. E daremo sicuramente notizia di qualche evento e anche di quando farete questa vendemmia, quindi se qualcuno degli ascoltatori vorrà venire a settembre. E vogliamo ricordare il sito internet? Esatto, voi seguite sempre il sito internet www.lacostigliola.org, dove mano a mano vengono ricordati gli appuntamenti dei mesi in corso. Adesso abbiamo quelli di giugno, come dicevo, centri estivi e campi WWF, poi ci sono anche tante altre cose interessanti anche per il benessere personale, percorsi a piedi, l'anello ciclabile e così via. Ci sono veramente tante iniziative da vivere insieme. Bene, grazie. Saluto anche tutti gli ascoltatori e a risentirci presto alla Costigliola, e spero a rivederci durante le vendemmie o altri eventi. Va bene, grazie Paolo. Passiamo adesso ad alcune notizie. E parliamo di pesca, un settore in grande crisi se si pensa che dal 1993 le catture nell'Unione Europea sono diminuite costantemente, con il crollo del 25% del pescato e di circa un terzo delle aziende del settore. Mentre invece, a parte questi ultimi due anni frenati dalla crisi economica, la domanda di pesce sarebbe in costante aumento. Da pochi giorni il Consiglio della Pesca e il Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo politico sulla riforma della politica comune della pesca nell'Unione Europea, concordando di ricostituire gli stock ittici, fissando un obiettivo giuridicamente vincolante per porre fine alla pesca eccessiva e impegnandosi a ridurre le catture accessorie e i rigetti in mare. È stato inoltre deciso che nel distribuire le opportunità di pesca gli Stati membri dovranno avvalersi di criteri trasparenti di sostenibilità ambientale e sociale, quali ad esempio la valutazione dell'impatto delle attività di pesca sull'ambiente. Il comune di Rubano, in provincia di Padova, è il vincitore della sfida all'ultima sporta promossa dall'Associazione dei Comuni Virtuosi, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, per ridurre il consumo dello shopper usa e getta. Il concorso ha monitorato per 6 mesi, fino al 30 di aprile, i consumi di sacchetti usa e getta nei comuni partecipanti, coinvolgendo 159.000 cittadini, 180 punti vendita tra supermercati e negozi del piccolo commercio, e contando oltre 2.900.000 acquisti effettuati shopper free. Il Comune di Rubano, grazie a una campagna di sensibilizzazione tra i cittadini nelle scuole e negli esercizi commerciali, ha vinto i 20.000 euro per aver realizzato il miglior risultato, ovvero il 33% del valore pro capite di acquisti realizzati senza cessione gratuita o onerosa di shopper. I soldi del premio, ha dichiarato l'assessore all'ambiente Lorenzo Segato, saranno usati per effettuare interventi necessari per migliorare la sicurezza statica degli edifici scolastici. In occasione del 130° anniversario della latteria di Soligo, sabato 8 giugno dalle 9 alle 13, presso la sede della latteria in via 1 settembre a Soligo, si terrà il convegno per un'economia sociale dei territori. Interverranno tra gli altri il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, l'assessore all'agricoltura Franco Manzato e il presidente della Commissione Agricoltura al Parlamento Europeo Paolo De Castro. Il giorno successivo, domenica 9 giugno dalle 10.30 alle 18.30, porte aperte la latteria di Soligo con visite guidate, mercatini e rievocazioni storiche dei prodotti lattiero-caseari. Infine, mercoledì 19 giugno alle ore 10 nell'aula magno dell'Università in via Dal Masso 1 a Conegliano si terrà il primo incontro del trittico vitivinicolo 2013 che Europe Direct Veneto, sportello di informazioni europee di Veneto Agricolture, organizza ogni anno per fare il punto sullo stato vegetativo fitosanitario dei vigneti nelle diverse aree viticole regionali. Come di consueto saranno fornite le prime anticipazioni sulla prossima vendemmia. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima, riascoltateci se volete sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.